2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 13 novembre 2010, bentornati o benvenuti a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale, il nostro indirizzo di posta elettronica è molto semplice, 2024 scritto in cifra, @radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet. Più tardi, al termine della nostra puntata, come sempre grazie alla collaborazione dei nostri tecnici, oggi in regia Valeria Bernardi. Troverete sul nostro sito www.radio24.it, alla pagina podcast, un link che vi suggerisce appunto dove andare a prendere il file MP3, ma come vi dico ogni settimana, se utilizzate uno dei tanti software che vi permettono di gestire i podcast, in quel modo, una volta che vi siete iscritti e quindi avete detto a questo software vai a pescare il file MP3 nel tal posto, ci pensa il software a far tutto, quindi vi scaricate automaticamente settimana dopo settimana il file della nostra trasmissione. Ci sono due notizie che riguardano la rete internet italiana, notizie di questa settimana, la rete di oggi e anche quella di domani. La prima notizia è una rimodulazione, un aumento per meglio dire, delle tariffe di unbundling, una brutta parola che descrive che è di fatto il canone che gli operatori alternativi pagano a Telecom Italia per utilizzare il doppino di rame che arriva nelle nostre case fornite di ADSL. Quindi se un operatore, che ne so, Fastweb o Tiscali vende la DSL ad un cliente, arriva con la propria rete nella stragrande maggioranza dei casi nella centrale di Telecom Italia e poi lì può avere proprie infrastrutture, proprie macchine o affittare macchine da Telecom Italia e poi però dalla centrale fino alla nostra casa affitta il cosiddetto ultimo miglio. Dopo la bocciatura dell'Unione Europea, l'Autorità per le Telecomunicazioni ha definito il nuovo listino di questo canone, che prevede un prezzo di 8,7 euro al mese per linea per il 2010, che diventeranno 9 per il prossimo anno. Telecom si dice sorpresa di questa decisione, ma sono soprattutto gli operatori alternativi che si dichiarano rammaricati. Secondo Fastweb, Vodafone, Wind e Tiscali, le nuove regole favoriscono l'operatore dominante sul mercato, quindi favoriscono Telecom Italia. La seconda notizia è relativa all'accordo firmato al Ministero dello Sviluppo Economico tra 7 operatori e lo stesso Ministero che dovrebbe portare alla creazione di una società per la realizzazione di reti di nuova generazione in fibra ottica. È la famosa rete di prossima generazione di cui abbiamo parlato spesso. Questo è un accordo che potenzialmente è importante, ma vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane. Per il momento siamo nella fase di Memorandum of Understanding, che prevede la creazione di un comitato al quale parteciperà il Ministero e anche 7 operatori, cioè Telecom, Vodafone, Fastweb, Wind, 3, BT e Tiscali, che entro 3 mesi metterà a punto un business plan. Quindi bisognerà vedere poi che cosa ci sarà scritto in questo piano di impresa. Comunque il progetto prevede di dotare il 50% degli italiani di un collegamento a banda larga entro il 2020, un progetto che potrebbe valere 8,3 miliardi di investimenti, ma da qui al 2020 chissà che cosa succederà. E comunque, come avete sentito, riguarda il 50% degli italiani, quindi rimane e rimarrà sempre di più anche il problema del cosiddetto digital divide, che per il momento non è stato risolto perché i famosi 800 milioni che qualche cosa potevano fare non sono stati erogati per ridurre questo digital divide, ma come dicevamo, se questa rete di prossima generazione punta al 50% degli italiani, c'è una bella fetta di Italia che rimane senza banda larga di prossima generazione. Una notizia che arriva dagli Stati Uniti e riguarda la prossima settimana, però ci sono già delle indiscrezioni in rete. La prossima settimana a San Francisco ci sarà il Web 2.0 Summit e lunedì, nel primo giorno di conferenze, Facebook ha invitato i giornalisti ad un evento nel quale dovrebbe svelare una serie di novità che potrebbero partire dalla creazione di un account di posta elettronica per tutti gli iscritti al social network. Parliamo di 500 milioni di persone, poi bisogna sempre andare ad indagare quanti di questi 500 milioni sono effettivamente attivi. Probabile anche un annuncio relativo all'integrazione con le applicazioni online di Microsoft Office. Sapete che Microsoft ha una partecipazione in Facebook e anche una serie di collaborazioni.

espansione su Milano, certo. E quindi da questo punto di vista è un terreno di lavoro dei grandi operatori della grande distribuzione, qua, i quali in questo momento in Italia, a parte Esselunga, sostanzialmente non ci sono. E quindi ci sono intere regioni italiane che non possono fare la spesa online, e alcune regioni che per fare la spesa online si devono rivolgere a quell'unico operatore che gli fornisce questo tipo di servizio. Sì. Se invece pensiamo all'enogastronomia, questa invece è una potenzialità italiana, già in parte utilizzata, debolmente utilizzata, però è anche vero che stiamo parlando di un fenomeno, tra virgolette, di nicchia. Sì, quindi anche in questo caso, insomma, opportunità da cogliere ce ne sarebbero. Ce ne sarebbero, però se guardiamo ai grossi numeri, sì, le opportunità più interessanti le vedo nei due settori che citavo in precedenza, turismo e fashion. C'è anche, non vorrei andare troppo sul raffinato, ma visto che si parla spesso di usabilità dei siti internet, c'è anche un problema del genere, cioè che io vado su un sito magari di un'azienda italiana, ben organizzata anche dal punto di vista della logistica, e poi ha un sito internet che io fatico ad utilizzare. A volte provo siti americani che sono fantastici, ti viene proprio voglia di andare avanti, di cliccare e andare verso al pagamento, insomma. Assolutamente sì, c'è anche un problema di usabilità, anche se un'analisi che abbiamo fatto in questo caso lo scorso anno ci ha detto che da questo punto di vista almeno i migliori siti italiani non sono da meno dei migliori siti internazionali. È vero che stiamo parlando dei migliori siti italiani, se guardiamo ai siti più piccoli, che però costituiscono un po', diciamo così, la maggior parte dei siti di commercio elettronico, da questo punto di vista ci sono sicuramente grandi problemi di usabilità che si incrementeranno in relazione al fatto che il futuro dipenderà fortissimamente dalla capacità di integrare il canale più web-based, più PC-centrico, sì, con il mondo del mobile, con, ecco, il mondo del telefonino. Infatti questo è un punto al quale volevo arrivare, che mi pare di capire è in fase embrionale, cioè si vende molto poco, forse i biglietti, qualche biglietto aereo o qualche biglietto del treno. In questo momento il fenomeno del mobile commerce, sì, intesa appunto come la vendita attraverso il cellulare, non di contenuti digitali, ma di prodotti, e come stavamo parlando prima, è ancora un fenomeno marginale, parliamo di una decina di milioni di euro, e si vendono essenzialmente biglietti ferroviari, aerei, aste online. Ecco, quindi la possibilità di partecipare a un'asta online mentre sei in mobilità, per il fatto che l'asta avviene in un certo momento e quindi bisogna rispettare una certa finestra, è un altro tipico fenomeno che sta avvenendo. Comunque è un fenomeno marginale ancora da un punto di vista dei numeri, però teniamo conto che il tema non è tanto il mobile commerce in senso proprio, ma l'integrazione del cellulare nell'intero processo di acquisto. Quindi il cellulare può essere uno strumento importante nelle fasi di prevendita o nelle fasi di post vendita, quindi è un canale che va a inserirsi, a diventare complementare rispetto all'uso del PC, supportando altre fasi del processo. Ricordiamo che il cellulare ce l'hanno tutti gli italiani, la mobilità è evidentemente la caratteristica principale di questo strumento, ma anche il fatto che questo strumento consente anche tante altre cose, per esempio la localizzazione, per esempio il fare una fotografia, per esempio lo scannerizzare un codice a barre. Ci sono tante potenzialità associate al cellulare che non sono associate al PC fisso, e quindi la capacità di usarle in maniera intelligente nel processo di acquisto o di vendita diventa un po' il cuore dello sviluppo futuro in termini di usabilità. Bene, io ringrazio Alessandro Perego per essere stato con noi, ricordo responsabile dell'osservatorio, responsabile scientifico dell'osservatorio e-commerce business to consumer, che è realizzato da Netcom e dalla School of Management del Politecnico di Milano. Buon lavoro, a presto. Grazie a voi, arrivederci. Adesso cambiamo argomento. Come vi abbiamo annunciato la scorsa settimana, in questa puntata vogliamo occuparci di Kinect con la K iniziale. È un nuovo accessorio, stiamo parlando del mondo dei videogiochi, presentato dalla Microsoft, uscito anche in Italia questa settimana, quindi è disponibile, lo si può acquistare e provare anche nel nostro paese. Stiamo parlando sostanzialmente di un accessorio per la Xbox 360, quindi per il momento stiamo parlando di una sola fetta del mercato, quelli che o hanno questo prodotto o lo acquisteranno. Alcuni la definiscono rivoluzione, non so poi se è giusto o corretto parlare di rivoluzione, non so nemmeno se stiamo parlando di tecnologie vecchie o nuove, ne parleremo tra poco. Sostanzialmente stiamo parlando di un sistema che ci permette di guidare, di pilotare, di comandare un videogioco non più con un joystick o con un comando come siamo abituati in altri casi, ma con i soli movimenti del corpo o addirittura con la voce. Ci facciamo aiutare per capirne di più da Gianfranco Giardina, il nostro esperto di audio e video, e non solo di audio e video, ma a questo punto anche di videogames. Bentornato 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Questo Kinect è basato su una tecnologia nuova, vecchia, è un insieme, cioè cambia il concetto solamente perché si tratta di un accessorio da mettere sotto sopra alla TV che si utilizza in accoppiata con una Xbox e, se non sbaglio, ha una o più videocamere, un microfono e un sensore di profondità, 3-4 elementi. Sì, sono diversi elementi messi insieme, non sono tecnologie radicalmente nuove. Quello che è nuovo è la possibilità di averle riunite in un singolo sistema che interpreta in tempo reale tutte le informazioni che vengono dalla telecamera RGB, dai due sensori a infrarossi, dal microfono, come dicevi giustamente, e avere la potenza di calcolo sufficiente per elaborarla in tempo reale e interpretare il movimento. Quindi quello che c'è di nuovo in realtà è l'integrazione e la capacità di calcolo per fare questo, che poi è quello che vedevamo fare in Minority Report, il film dove soltanto con i movimenti il protagonista spostava delle finestre su un display, faceva delle complesse operazioni soltanto con i movimenti. La stessa cosa la si fa adesso con un oggetto però che è assolutamente molto raggiungibile da tutti, consumer, indirizzato alle famiglie, quindi un oggetto per tutti. Senti, si può fare effettivamente tutto o ci sono dei limiti, nel senso che effettivamente questa tecnologia sostituisce, poi magari parliamo anche dei concorrenti, però sostituisce il comando senza fili della Wii o quello della Wii di Nintendo o della PS3 di Sony, o potremmo dire il mouse di un computer o il joystick, se vogliamo rimanere nell'ambito. Sì, qualsiasi forma di controller, si dice appunto il controller sei tu in questo caso. E questo è abbastanza vero, e devo dire anche alle prove che abbiamo fatto, la fedeltà nella riproduzione del movimento è molto buona, sicuramente migliore di quella che si potesse pensare così a livello astratto. Resta un pochino di lag cosiddetto, quindi di ritardo tra il movimento fisico e il movimento riprodotto sul display. È un po' tutta la catena che lo introduce, anche il TV stesso ne introduce un pochino di questo ritardo, ma insomma sommato un pochino si vede, ma assolutamente compatibile con il buon gioco. E quello che in realtà non appare ancora fattibile sono alcuni movimenti fini, tipo quello delle dita piuttosto che Se io conto con le dita non capisce difficilmente, ecco. Oppure i gestacci. Però questa hanno introdotto un elemento forzatamente, giusto? Sì, ecco, diciamo che forse per non generare delle scene magari che potevano avere anche un risvolto di comunicazione non esaltante, effettivamente abbiamo visto che facendo dei gestacci, il tipico gesto dell'ombrello, tanto per intenderci, il sistema lo interpreta correttamente ma non lo riproduce, tant'è vero che il nostro avatar saluta in quel caso. Ci avete provato? Quindi ci abbiamo provato, subito. Però ci è capitato. Senti, questa tecnologia è facile da spiegare, cioè il funzionamento è comprensibile o è talmente complicato che ci accontentiamo di sapere qual è il risultato? No, beh, è abbastanza facile, anche perché ci sono alcune routine che servono proprio per la messa a punto del sistema, che spiegano bene e fanno vedere anche il modello, diciamo wireframe, quindi per punti di come viene ricostruito il nostro corpo umano. E il sistema riconosce di punti chiave del corpo umano e quindi soprattutto non soltanto in proiezione frontale, quindi quello che vede una telecamera, ma anche diciamo tridimensionalmente con questi sensori che ricostruiscono la profondità, quindi possono in grado di calcolare anche la distanza della persona dalla console, dal gioco, e quindi anche stabilire dei rapporti spaziali tra due personaggi. Quindi sicuramente è una cosa molto, molto sofisticata. Per fare questo è stato necessario che questa barra con i sensori fosse motorizzata. Perché? Perché potrebbe essere messa sotto il TV. Quindi si muove. Si muove a inseguendo le persone secondo che se sono più vicino, più lontane, più in alto, più in basso rispetto al punto di vista. In realtà si muove soltanto verso l'alto, verso il basso, ma insegue e come si determina qual è la scena e quindi si adatta a molte situazioni. Va detto comunque che l'angolo di inquadratura di tutto questo sistema non è enorme, bisogna stare quindi, davanti, insomma, comunque bisogna stare abbastanza davanti, non è adatto per distanze inferiori al metro e mezzo, bisogna stare un pochino più lontani, quindi un po' di spazio comunque nella stanza serve, e capita spesso giocando magari di scontrarsi col proprio avversario. Al massimo in due, cioè si può fare un solo. No, si gioca anche in quattro, anche in però, quattro. Però diventa molto caos. Complesso, molto complesso evitarsi. Allora, non abbiamo la possibilità naturalmente di farvi vedere delle fotografie o delle immagini che sono disponibili ampiamente su internet, anche sul sito dday.it che Gianfranco Giardina dirige con la sua redazione. Però possiamo dire insomma che alla console normalmente va accoppiata una TV per poter videogiocare, e sotto o sopra, ma di solito mi pare sotto la TV è simile un po' ad una webcam un po' più grossa, è una barra. Sì, un è una po' barretta lunga, orizzontale che appunto con il suo piedistallo. Con questo prodotto Microsoft cerca, gli obiettivi tra l'altro sono molto ambiziosi, perché parla l'azienda di 5 milioni di prodotti venduti quest'anno, quindi con l'aiuto delle festività natalizie in tutto il mondo. Dicevo, Microsoft cerca di conquistare anche un pubblico diverso dai classici videogiocatori, come ci ha raccontato e spiegato Evita Barra di Microsoft Italia. Dunque Gianfranco, abbiamo sentito che si cerca di conquistare un nuovo pubblico, un po' come hanno fatto Nintendo soprattutto già da 3 anni con la Wii, e anche Move, che è il nuovo prodotto abbastanza recente di Sony con la PS3, che sostanzialmente diciamo riproducono un risultato abbastanza simile, di fatto però hai in mano qualche cosa invece di non aver nulla. Ecco, diciamo che il sicuramente soprattutto Nintendo con Wii ormai 3 anni fa ha inventato un nuovo segmento, i cosiddetti casual gamers, quindi giocatori non terribilmente impallinati di videogame, non anche capaci di giocare, di usare videogiochi. Infatti, quindi molto pubblico femminile, mamme, papà, rispetto ai bambini, gruppi di amici, tant'è vero che addirittura si è parlato di Wii Party, cioè gente che faceva l'invito a cena e dopodiché tutta la sera a giocare per esempio con la Wii. Quello è il segmento a cui si propone. Certo, Kinect fa un passo avanti, perché in realtà quando noi pensiamo a Wii o anche a PlayStation Move, pensiamo comunque a un controller, per quanto con il giroscopio e con l'accelerometro, quindi in grado di determinare che movimenti sto facendo, ma dobbiamo comunque impugnare questo oggetto ed è in grado di determinare in realtà i movimenti che facciamo col braccio, con la mano. Sì. E qui invece a giocare è potenzialmente tutto il corpo. Perché dico potenzialmente? Perché poi dipende dal videogioco. Se il videogioco è un banalissimo ping pong, permettetemi il banalissimo, perché poi l'abbiamo visto implementato con Kinect, è chiaro che giocare con la mano invece che con la racchetta evidentemente può essere sicuramente comodo, però non è così differente da giocare per esempio a ping pong o a tennis con la Wii. Cioè, perché di fatto è soltanto un braccio quello coinvolto, e quindi sì, ci sono i nostri movimenti del corpo, il nostro avatar si muoverà allo stesso modo, ma non è decisivo. Mentre in giochi più complessi, dove il movimento deve essere completo, per esempio giochi dove bisogna saltare, Ecco, con Wii c'è la Wii Board che permette di fare giochi di questo tipo, quindi la pedana sulla quale ci si appoggia che rileva le differenze di pressione e di peso, quindi il salto simulato viene identificato dal gioco. Qui il salto non deve essere simulato, qui il salto deve essere vero reale, proprio, sì. Si deve staccare da terra e questo rende il gioco con Kinect in realtà molto più faticoso in termini proprio fisici di quanto avevamo visto e sperimentato con Wii. Cioè bastava girare il braccio e funzionava. Qua invece bisogna proprio muovere. Qui si suda per davvero. Tra l'altro c'è anche, e questi sono altri due elementi interessanti, anche se di nuovo stiamo parlando di tecnologie conosciute, il riconoscimento facciale, che per chi non l'ha mai usato sembra effettivamente una roba fantascientifica, ma io ricordo che un amico me lo faceva vedere 7 anni fa con un softwareino banalissimo su un computer portatile. Certo. E anche il riconoscimento della voce, che non è ancora disponibile per la lingua italiana, ma potenzialmente c'è. Sì, sì, lo sarà sicuramente, anche quello c'è. E applicazione, se vogliamo anche questo, il massimo della stupidità tecnologica, ma sicuramente interessante, la telecamerina RGB, che è integrata in Kinect, scatta anche delle fotografie nei momenti più clamorosi del gioco. Quindi proprio come succede nei parchi divertimento, quando scatta la fotografia, quando siamo sul lotto volante piuttosto che su qualche attrazione di quel tipo. Ecco, nei momenti più concitati del gioco scatta delle foto e poi ce le ripropone. Sì, senti, una curiosità, questa cosa costa molto poco, è alla portata di tutti. Allora, sarebbe meglio comprarla negli Stati Uniti perché costa un po' meno. questo sì, come moltissime cose purtroppo, perché c'è sempre questa logica di cambio dollaro a euro uno a uno che invece non, sui mercati finanziari non è sì, così. Ci saranno le guerre valutarie, i consumatori forse dovrebbero fare questo, esatto. Di guerra valutaria, ma comunque tornando a noi, il prezzo è di 149,99, praticamente 150 euro per il Kinect, che è compatibile con tutte le Xbox 360. E ovviamente per i modelli che sono già stati venduti nei mesi e negli anni scorsi è necessario fare l'aggiornamento del software che tra l'altro semplifica l'interfaccia in maniera ulteriore, e anche questo è un segno evidente che ci si sta indirizzando verso un mercato di gamers un po' più casual, un po' più occasionali, non proprio il gamer incallito. Mentre esiste anche un bundle per chi non avesse ancora Xbox 360 con la versione da diciamo slim semplificata da 4 gigabit a 299 euro l'una e l'altra cosa, quindi Xbox 360 e l'accessorio Kinect che permette di fare questi giochi. Al di là di questo prodotto, poi immagino che gli altri concorrenti, che sono sostanzialmente Nintendo e Sony, non ci sono altri player forti nel mercato nelle console da casa? No. E ecco, dicevo, al di là insomma del mondo videogiochi, questo tipo di tecnologia che tipo di scenari può aprire in altri ambiti di consumer electronics, come dicono gli esperti, elettronica di consumo? Gli scenari sono tantissimi e difficilmente anche diciamo prevedibili con precisione adesso, però sicuramente possiamo dire che tutto quello che va comandato, direi telecomandato, e quindi è chiaro che il riferimento va al telecomando, potrebbe essere sostituito, quantomeno affiancato, dai gestor, quindi dai gesti della persona, che può quindi, visto che normalmente un TV si guarda in una posizione frontale, quindi inquadrato da un dispositivo simile al Kinect di oggi, potrebbe semplicemente cambiare canale facendo un gesto col dito, magari anche configurabile, potrebbe anche alzare e abbassare il volume, oppure allo stesso modo, e questo potrebbe essere molto comodo anche in termini di risparmio energetico, potrebbe semplicemente spegnersi e riaccendersi ogni qualvolta lo spettatore se ne va o ritorna. Quindi qui veramente dobbiamo pensare anche a tutte le applicazioni di domotica, quelle che oggi chiamiamo di domotica, quindi di casa intelligente, che potrebbero svilupparsi con sensori di questo tipo e quindi che poi faccia anche per esempio un riconoscimento biometrico contemporaneamente, quindi potenzialmente anche gli accessi a casa, l'inserimento e disinserimento dell'antifurto, piuttosto che l'accensione e spegnimento centralizzato delle luci, la gestione del clima, quindi la temperatura di casa, e penso anche e soprattutto a un pubblico di diversamente abili, quindi che magari non hanno problemi nel movimento, però possono avere magari non hanno problemi nel movimento delle braccia, ma possono avere problemi nel deambulare, quindi accendere e spegnere la luce per queste persone potrebbe diventare un problema. Se aggiungiamo a questo anche il riconoscimento vocale, ecco, questa diventa un'interfaccia sicuramente universale e soprattutto naturale, che non richiede nessuna abilità se non quella ovviamente del movimento. Quella deve essere garantita. In ambito di elettronica di consumo, esempi simili ce ne sono, anche più semplificati, che ne so, con magari un tipo solo di riconoscimenti o poco? Nel mondo delle TV, Nelle fiere internazionali è stato fatto vedere già molte cose. Diciamo che l'applicazione più classica è quella sui prototipi che abbiamo visto, sui prototipi di televisori, in cui tutta la gestione, non soltanto del classico cambio canale, volume, era fatta con i gesti, ma soprattutto la navigazione tra le diverse pagine dei contenuti accessibili tramite le Connected TV, quelle che chiamiamo Connected TV, quindi la TV collegata alla presa di rete, quindi a internet, che accede a diversi contenuti, anche semplicemente sfogliare delle foto che stanno sul proprio server di casa, sul TV, facendo dei gesti chiaramente avanti e indietro con il braccio. Direi che è lo step successivo rispetto all'interfaccia touch. Le interfacce touch sono naturali, sono chiare a tutti, anche ai bambini, le abbiamo viste ormai sui telefonini, su iPad, sui tablet, però richiedono una prossimità, devo toccare il display. Ecco, fare le stesse cose che facciamo con le interfacce touch, però farle a distanza, quando il display è a distanza, quindi tipicamente una situazione da TV. Bene, io ringrazio Gianfranco Giardina per essere stato con noi. Potremmo in questa puntata, ma non abbiamo il tempo, magari lo rimandiamo in una delle prossime, parlare di alcune novità che riguardano il mondo Apple iTunes, perché voi l'avete scritto, tra l'altro anticipato anche di un po' di giorni, forse più di una settimana, sono arrivati i video, quindi i film sono disponibili, come la musica e le canzoni, sono arrivati anche i film, e quindi una sorta di acquisto, chiamiamolo noleggio virtuale, come lo si vuole chiamare, perché è molto simile al noleggio. A questo punto, perché la domanda però te la voglio fare, a questo punto stiamo parlando di un grande negozio online che offre anche film che si possono potenzialmente vedere anche in TV, giusto? Sì, certo, assolutamente. Con i dovuti cavi o con i dovuti media extender, come avevo detto. Ci sono altri grandi negozi del genere o Apple è uno dei pochi per il mercato italiano? No, ce ne sono diversi che stanno nascendo, ma l'esperienza che io ritengo più promettente in assoluto è quella legata ai TV, quindi oramai tutti i produttori di TV, e questo sarà oggetto di tutti gli annunci del 2011, hanno il proprio marketplace nel quale offrono praticamente un'ampia gamma, se non la totalità, dei film in streaming, sia in bassa definizione che in alta definizione. La cosa singolare, forse democratica da questo punto di vista, è che contrariamente alle pay TV, che hanno le esclusive sui film, quindi se un film va su Mediaset Premium probabilmente non lo vedremo su Sky e viceversa, nel caso dello streaming, che sono praticamente pay per view e non pay TV, quindi si paga solo quello che si vede, i diritti sono condivisi tra tutti, quindi tutti i vari marketplace avranno praticamente un catalogo analogo, molto ampio, di film, quindi qualsiasi sia la piattaforma alla quale accede il proprio TV, ecco, va bene, probabilmente avremo la stragrande maggioranza di tutti i film. Questo è un argomento molto interessante, ci torneremo. Grazie Gianfranco, buon lavoro, a presto. Grazie mille. Adesso c'è l'ultima parte di 2024, questa che state ascoltando è la versione podcast del nostro programma. Vi ringraziamo del download, soprattutto ringraziamo tutti coloro che settimana dopo settimana utilizzano il sistema podcast, o in ogni caso tutti coloro che scaricano attraverso gli altri 1000 sistemi che ci sono per downloadare il file MP3 della nostra trasmissione. Dicevo, una versione podcast che questa settimana è un po' più ampia, un po' più ricca del solito. Le interviste di questa settimana erano più approfondite, comunque più lunghe del consentito, cioè dello spazio che era a nostra disposizione nel sabato pomeriggio tra le 16 e le 17 su Radio 24. Allora c'è questo straordinario strumento che è il podcast, dove lo spazio naturalmente è più ampio, potenzialmente infinito, ma certo, insomma, dobbiamo terminare anche noi. Allora ci avviamo a terminare. Un'ultima parentesi prima di dare la parola al nostro prossimo ospite: un consiglio che vi diamo, visto che ce lo diciamo spesso, 2024 con i nostri ospiti c'è necessità di diffondere la cultura digitale. Beh, vi consigliamo di suggerire il download, l'ascolto di 2024 attraverso internet ai vostri amici, ai vostri conoscenti in rete. C'è bisogno di diffondere la cultura digitale per i motivi che abbiamo detto e ripetuto spesso, insomma, che tutti voi conoscete molto bene. Adesso parliamo di quella che noi in Italia, per semplificare, definiamo telefonia mobile. Gli inglesi usano un termine che allarga un po' il concetto, cioè parlano di mobile devices, tutti gli strumenti che in qualche modo sono connessi in rete. E oramai all'interno di questa grande categoria ci sono i semplici telefonini, ma sempre più gli smartphone e anche altre cose che si connettono, come ad esempio i tablet. Ne parliamo con Carolina Milanesi, che è vicepresidente di Gartner. Gartner è una delle più grosse società mondiali di analisi, e Carolina Milanesi da Londra è responsabile della divisione sempre più ampia e più complessa proprio che si occupa dei mobile devices. Bentornata a 2024. È sempre un piacere, grazie. Voi questa settimana avete pubblicato la vostra analisi sul mercato dei terminali mobili in tutto il mondo. Allora partiamo proprio da uno sguardo generale: che cosa è successo nel terzo trimestre? È stato un trimestre molto positivo a livello globale e in particolare, diciamo, la notizia che fa piacere sicuramente ai venditori è che la parte di smartphone sta diventando sempre più forte. Non solo in Nord America, ma anche in Europa vediamo l'ascesa di Android, e grazie a questo e anche a Apple, che ha avuto un trimestre fortissimo, vediamo la quota di mercato totale di vendite degli smartphone crescere intorno al 19-20% delle vendite totale. Quindi diciamo che circa 20 telefonini, chiamiamoli ancora così, venduti sono smartphone su 100, fatto 100 insomma il numero totale. Ma quello che è interessante è il trend di crescita, cioè voi dite che queste vendite sono cresciute del 96%, giusto? Sì, esattamente. Quindi il dato è sicuramente molto interessante. Vediamo che se guardiamo ai nomi, Nokia rimane leader, anche se la quota di mercato scende, siamo ad un 28%, Samsung è ancora secondo con il 17,2%, poi abbiamo LG al 6,6%, qua parliamo di quote mondiali, poi abbiamo Apple con un 3,2%, Research in Motion, cioè i BlackBerry, con 2,9%, quindi circa il 3% del mercato. Vedo un numero interessante, cioè un 33%, quindi più di un terzo del mercato, fatto da marchi pressoché sconosciuti. Questo è un fenomeno che mi sembra stia crescendo moltissimo. Per quale motivo e soprattutto di che cosa stiamo parlando? Sì, e questa è anche la ragione per cui le quote di mercato dei venditori, quelli tradizionali come Nokia e Samsung, sono scese così rispetto all'anno precedente. Qui parliamo di aziende di due tipi: uno è i venditori che conosciamo, che sono magari relegati a un discorso più regionale, come per esempio i venditori giapponesi, NEC, Sharp, Toshiba, ma la crescita vera viene da venditori che sono basate in Cina e che non hanno una marca riconoscibile. Alcuni di questi venditori sono cresciuti in maniera fenomenale quest'anno, due nomi che così balzano così alla superficie sono Micromax e G5, che sono due compagnie cinesi che vendono in maniera prevalente in India e adesso fanno parte dei primi 15 venditori nel mondo, facendo dai 20 ai 10 milioni di unità all'anno. questi venditori hanno un appeal, così, un fascino per i consumatori dei mercati emergenti, dove prima non c'era la possibilità di comprare un telefono nuovo che costa un terzo di quelli che di quello che è il costo di venditori di prima banda, no? Come Nokia e Samsung. E quindi prima ci si rivolgeva al mercato di seconda mano, adesso invece ci sono queste aziende che in un periodo molto breve riescono a copiare il design di prodotti che sono prodotti di marca che i consumatori vogliono, ma ad arrivare ad un prezzo molto molto più basso. In Europa, America, insomma nei paesi occidentali, questi produttori non riescono ad entrare o cominciano già ad essere presenti? No, questo rimane ancora un mercato molto limitato al mercato emergente. Dobbiamo anche ricordare che alcuni di questi produttori, e tengo ancora a precisare, queste sono marche che non abbiamo, a volte non è neanche facile riconoscere, che questi produttori a volte non pagano neanche le tasse d'importo e via dicendo, quindi è un mercato molto parallelo. E diciamo, per far capire magari agli ascoltatori, usano un canale che è simile ai canali dove compriamo le borse o i portafogli e le cinture di marca che arrivano dalla Cina ma che non sono reali. Sì, che non sono, insomma, originali, quindi esatto. Questo è un mercato anche, insomma, difficile da misurare, però il fenomeno è sicuramente estremamente interessante. Una cosa che va analizzata, e oramai lo facciamo tutte le volte, è la classifica per sistemi operativi, perché oramai, vista la crescita e l'importanza che hanno gli smartphone, i sistemi operativi diventano importanti. Allora qua, diciamo, alla prima posizione, vista la quota di mercato che ancora Nokia ha in tutto il mondo, rimane Symbian, e Nokia è di fatto l'unica azienda che usa questo sistema operativo, che ha ancora una quota superiore al 36%. Poi c'è stata una crescita incredibile di Android, che ha superato il sistema operativo della Apple, e quindi oggi Android nel mondo è il secondo sistema operativo. Questo per quale motivo? Perché sono molti produttori che offrono questa soluzione o per altri motivi? Sì, la ragione principale è che ci sono molti produttori che offrono questa soluzione. In America Android è diventata l'alternativa a RIM e a Apple e ha veramente, diciamo, svegliato il mercato a quello che è il mondo degli smartphone. In Europa questa crescita è incominciata più lentamente e è sbocciata, diciamo così, nel terzo trimestre. Questo ha avuto un impatto enorme sul mercato totale per Android, perché prima diciamo che era limitato veramente al Nord America. Invece adesso che hai marche come Samsung, come Sony Ericsson e come LG che si sono unite alla marca di HTC, che è stata la prima a portare Android nel mercato europeo, l'interesse dei consumatori è aumentato e quindi abbiamo una quota di mercato per Android in Europa che è cresciuta dal 7% nel primo trimestre al 29% nel terzo trimestre. Quindi anche in Europa sta andando molto forte questo sistema operativo. Dicevi prima che Apple ha avuto un terzo trimestre molto buono. Se guardiamo alla quota di mercato mondiale del sistema operativo di Apple, è calata di un poco, ma quello che è rilevante, ma questo vale anche un po' per gli altri produttori, che di fatto ha raddoppiato le vendite, sempre per il motivo che dicevamo prima, cioè si vendono più smartphone, quindi le quote di mercato si rimescolano un pochettino e magari alcuni le abbassano, però i volumi sono più elevati e quindi questa è una cosa interessante. In questo trimestre voi non avete nessun tipo di dato sulle vendite di Windows Phone, quindi il nuovo sistema operativo di Microsoft. Ne parliamo fra tre mesi? Esatto, ne parliamo il trimestre prossimo. E sul commento di iOS, quindi di Apple come sistema operativo, terrei a sottolineare che dobbiamo appunto ricordarci che mentre su Android hai diversi venditori e anche magari un prezzo che scende un pochino di più, secondo me l'importanza, diciamo, del risultato di Apple di sorpassare il RIM nel mercato nordamericano e di comunque tenere una terza posizione con un market share che è considerevole, è importante quando teniamo in considerazione appunto che è un'azienda con un prodotto e un prodotto che ha un prezzo così di media intorno ai $600. Quindi molto elevato. Esatto. Quindi anche una ricchezza, una fonte insomma di ricchezza per l'azienda. Un'ultima domanda riguarda una parte dei mobile devices di cui si parla molto ultimamente, cioè i tablet. Sono un tema che immagino abbiate già preso in considerazione, quindi vorrei capire se i sistemi operativi utilizzati nei tablet rientrano in questa classifica che voi fate o è solo ed esclusivamente smartphone, anche se oramai ci sono alcuni prodotti con un fattore di forma un po' difficile da definire se è uno smartphone o un tablet, perché ci sono delle cose che stanno in una mano e allora lì bisognerebbe capire se si parla di smartphone o di tablet. Beh, sicuramente un buon punto, questo diventerà sempre più difficile, però per noi in questa classifica sono solo gli smartphone, avremo una classifica separata per i tablet e una poi diciamo che prende i due mondi insieme, no? E poi potresti anche aggiungere che va anche oltre al tablet e al telefono, perché adesso hai anche lo stesso sistema operativo come iOS o come Android che va sui personal media players come l'iPod Touch o come il Galaxy Player di Samsung, quindi senz'altro andando in avanti questi mondi si uniranno sempre di più invece che diversificarsi e per i consumatori sarà una questione di scelta, compro un Galaxy Tab o compro un Galaxy S? Esatto. È una bella domanda. Probabilmente chi vende dice bisognerebbe averle tutte e due. Quindi bene, io ringrazio Carolina Milanese per essere stata con noi, insomma anche per il lavoro che diventa mese dopo mese sempre più complesso. Buon lavoro, a presto. A presto, arrivederci. E così terminiamo questa puntata di 2024, versione podcast più ampia del solito. Grazie come sempre per la vostra attenzione, grazie anche ai nostri tecnici questa settimana, Valeria Bernardi. E grazie anche ad Anita Panizza in redazione. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete scriverci, 2024, quindi in cifra 2024, @radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana, se lo vorrete, se vorrete scegliere 2024 anche tra 7 giorni, al sabato pomeriggio su Radio 24 tra le 16 e le 17 oppure qui sul nostro sito internet www.radio24.it anche attraverso il servizio podcast. Un buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.